24, la storia. Yossi fu assassinato in maniera brutale. Non è morto all'istante. I terroristi lo torturarono spietatamente davanti ai suoi amici. Non permisero ad alcun dottore di visitarlo, né permisero che l'ostaggio ferito, mio marito, fosse scambiato con qualcun altro, con un'altra persona. La morte e la tortura di Yossi servirono ai terroristi come esempio per gli altri ostaggi, per terrorizzarli, per renderli inoffensivi. Non lo farei come lo feci allora, lo farei meglio. Finché gli israeliani continueranno a occupare e a violentare la mia terra, farò tutto il possibile in qualsiasi parte del mondo per oppormi a quest'ingiustizia. Buon pomeriggio. Vi parlo in diretta dal villaggio olimpico a Monaco, Germania federale. In questo momento 8 o 9 atleti della squadra israeliana sono tenuti prigionieri. Questo gruppo di guerriglieri si fa chiamare Settembre Nero. Il comando tiene sotto tiro gli ostaggi con armi automatiche. È stato raggiunto un accordo, ma gli israeliani sono spariti. Un massiccio spiegamento di forze. Qualcosa si propone tra gli armi. Bentornati su Mix 24 con la seconda parte della storia sul massacro avvenuto durante i giochi olimpici a Monaco nel 1972. Lo abbiamo raccontato ieri, un comando di terroristi palestinesi irrompe nel villaggio olimpico e sequestra 11 atleti israeliani. Non abbiamo altra scelta se non quella di colpire le organizzazioni terroristiche, ovunque siamo in grado di farlo. È un dovere che abbiamo verso noi stessi e verso la pace, e assolveremo questo dovere in modo inflessibile. Da lì parte un'azione spietata del primo ministro israeliano Golda Meir per punire attentatori e mandanti. Il Comitato X, la squadra top secret del Mossad israeliano, guidata da Aharon Yariv, ha compilato una lista. Tutti gli uomini scritti su quella lista devono essere eliminati. Il primo uomo è stato annientato con 11 colpi di pistola a Roma il 16 ottobre del 72. Intanto, dopo il dirottamento di un aereo della Lufthansa, un comando arabo ha chiesto e ottenuto la liberazione dei 3 guerriglieri detenuti in Germania dopo la strage di Monaco. Did you shoot any of the Israeli hostages? Avete sparato agli ostaggi israeliani? Non è importante se ho ucciso gli israeliani. Tu personalmente hai sparato. Sappiamo che Israele è il nostro nemico. Cosa avete ottenuto? Abbiamo fatto sentire la nostra voce al mondo. Sono le sue parole? Ripeto, hanno fatto sentire la loro voce a tutto il mondo che prima non stava ad ascoltare. I terroristi superstiti della strage di Monaco sono liberi e tengono una conferenza stampa che sconcerta e indigna. Per Israele la conferma definitiva che per avere giustizia e per ottenere vendetta bisogna fare da soli. Intanto il Comitato X ha localizzato il bersaglio numero 2. Parigi, dicembre 1972. Il dottor Mahmoud Amshari, portavoce dell'OLP in Francia, vive al numero 175 di Rue d'Alésia. Questo è un brano della sua ultima intervista. Un'ultima domanda. Si sente al sicuro in Francia? Non teme per la sua vita? Personalmente no, ma non bisogna mai scherzare con il fuoco. Amshari è il numero 2 della lista di Golda. Per via del suo lavoro, Amshari è abituato a incontrare giornalisti di tutto il mondo. In dicembre, un uomo che si presenta come un giornalista gli chiede un'intervista. Amshari ignora che quel sedicente giornalista è in realtà un agente del Mossad. Nel corso dell'intervista, l'agente studia l'appartamento, conosce la moglie francese di Amshari e la loro bambina. Insomma, raccoglie quante più informazioni possibili. Il giorno dopo è venerdì 8 dicembre 1972. L'agente del Mossad è in un caffè dall'altro lato della strada. L'uomo controlla l'abitazione, aspetta che la moglie e la figlia di Amshari escano di casa. Poi fa una telefonata. Quando Amshari risponde, un segnale radio attiva un ordigno piazzato nel ricevitore. Amshari resta gravemente ferito. Morirà un mese più tardi. Mahmoud Amshari, Parigi, 8 dicembre 1972. Obiettivo colpito. 3 settimane dopo, Harari invia un altro gruppo a Nicosia, a Cipro. Hussein Abed al-Kir, principale contatto dell'OLP con i sovietici, è il numero 3 della lista. Golda Meir vuole che il messaggio arrivi forte e chiaro. La sua vendetta colpirà i responsabili ovunque essi si nascondano. Mercoledì 24 gennaio 1973. Alle 10 di sera Abed al-Kir torna nella sua stanza d'albergo dopo una riunione all'ambasciata sovietica. Appena si stende sul letto, una bomba a pressione piazzata sotto il materasso lo uccide all'istante. Al-Kir viene sepolto a Cipro. Abad al-Shir, Nicosia, 24 gennaio 1973. Obiettivo colpito. Parigi, venerdì 6 aprile 1973. Basel al-Kubaisi, professore universitario di legge, lascia il caffè della Paix vicino all'Opéra. Kubaisi si dirige verso casa. Arrivato in Rue de l'Arcade, viene avvicinato da 2 uomini che lo freddano con 11 colpi di pistola. Avendo rinvenuto dei bossoli di beretta, la polizia francese può solo supporre che l'agguato sia opera del Mossad. Tuttavia le istruzioni di Golda sono precise. Qualunque cosa accada, Israele negherà ogni coinvolgimento in questi omicidi. L'operazione deve assolutamente restare segreta. Ho seguito questi fatti con attenzione e ho capito. Io avrei preferito che li portassero in Israele per processarli, ma gli altri stati non hanno collaborato e quindi Israele ha intrapreso l'unica strada possibile. Israele aveva abolito la pena di morte. La legge israeliana non prevede la pena capitale, se non per i criminali di guerra nazisti. Eppure, scioccato da quello che era successo a Monaco, lo Stato di Israele decise di giustiziare chiunque fosse stato direttamente coinvolto in quella strage. Se qualcuno non le avesse fermate, quelle persone avrebbero continuato a provocare la morte di persone innocenti. Da questo punto di vista, la loro morte è servita a salvare delle vite umane. Io non so se tutte le vittime delle eliminazioni fossero responsabili direttamente della strage, ma sicuramente sapevano ed erano complici delle azioni di Monaco. Una ragione di Stato che porta all'eliminazione anche di chi forse della strage di Monaco non ha una responsabilità diretta, ma Golda Meir non torna indietro. Per lei la vendetta è la priorità assoluta, i suoi ordini sono chiari, il comitato X deve trovare e punire tutti coloro che figurano nella sua lista, anche quelli che si nascondono in paesi ostili a Israele. Ricevemmo informazioni riservate che riguardavano capi del terrorismo, ad esempio il vice di Yasser Arafat, Yusuf Najjar, un alto ufficiale dell'OLP, uno degli architetti dell'attacco di Monaco, un altro che, ovviamente, doveva essere eliminato. Ma Najjar era in Libano e in territorio nemico il Mossad non poteva agire liberamente come in Europa. Perciò decidemmo di compiere un'azione congiunta. Il Mossad avrebbe fornito la logistica e l'intelligence, mentre ad eseguire l'operazione sarebbero state le nostre unità militari speciali. Il Mossad ci fornì le planimetrie complete del palazzo, dalle cantine al piano attico, con la disposizione dei locali e una documentazione estremamente dettagliata sulle attività che si svolgevano nei vari appartamenti e perfino con le informazioni sui turni di vigilanza. Era la voce di Oud Barak, ex comandante dell'unità antiterrorismo. Martedì 10 aprile del 73, a inizio l'operazione Primavera della Giovinezza. Mix 24, la storia. Bentornati su Mix 24. Con l'appoggio della Marina israeliana, un comando scelto sbarca sulle coste del Libano. Ad attendere sulla spiaggia gli agenti del Mossad che lo condurranno all'obiettivo: uccidere i membri di Settembre Nero, autori del massacro alle Olimpiadi di Monaco del 72. Ascoltiamo Muki Betzer e Mahmoud Barak, che fecero parte dell'operazione. Alcuni di noi erano vestiti da turisti, altri da donne. In tutto eravamo in 14. E Ehud Barak era il nostro comandante. Io ero una brunetta e avevo accanto un aitante giovane biondo. Ehud, vestito da donna, era la mia ragazza. Aveva il volto truccato da bambino, con un neo vezzoso su una guancia. Il Mossad ci aveva fornito un suo speciale truccatore, che doveva renderci più belli. Dovevamo assomigliare a dei veri turisti. Obiettivo del comando è un palazzo al centro di Beirut, dove vivono tre alti esponenti di Settembre Nero. Il comando irrompe nell'edificio e uccide i tre attivisti di Settembre Nero. Nella sparatoria, però, restano uccise anche alcune persone innocenti. L'azione è fulminea. Nel giro di pochi minuti, il comando è già sulla via del ritorno, verso la spiaggia dove sono rimaste le imbarcazioni. 30 minuti dopo essere sbarcati, eravamo di nuovo in mare, diretti verso casa. Rientrato a casa, non potevo dire a mia moglie, oggi ex moglie, che cosa avevo fatto quella notte. Mi stesi a letto poco prima dell'alba e mi addormentai. Al mattino, lei si alzò e vicino al letto vide una borsetta e un abito da donna che non erano i suoi. Poi notò delle tracce di rossetto sulle mie labbra e un po' di mascara e di ombretto intorno agli occhi. Vi lascio immaginare quello che può avere pensato. Per Settembre Nero, il Blitz è un colpo durissimo. Nel raid muoiono Yusuf Najjar, numero 3 dell'OLP, il leader di Settembre Nero Kemal Adwan e Kamal Nasser, un portavoce dell'OLP. Yasser Arafat chiede che il mondo condanni fermamente l'episodio. Yusuf al-Najjar, Kemal Adwan, Kamal Nasser. Beirut, 11 aprile 1973. Obiettivi colpiti. Il mattino dopo ad Atene, Musa Abu Ziyad apprende dell'attacco nella sua stanza in effetto. Abu Ziyad sa di essere nella lista di Golda Meir. Anche lui ha partecipato all'attacco di Monaco. Corre a comprare un giornale. Ma mentre è fuori, alcuni agenti del Mossad entrano nella sua stanza e piazzano una carica di esplosivo al plastico sotto il letto. Pochi minuti dopo, Abu Ziyad è morto. Abu Ziyad, Atene, 12 aprile 1973. Obiettivo colpito. La lista di Golda dunque ormai è sempre più corta, ma proprio grazie a questo Ali Hassan Salameh, il principe rosso, uno degli organizzatori dell'azione di Monaco, assume un ruolo di primo piano nell'OLP. Per questo, per Mike Harari e per il Comitato X, colpire Salameh diventa una priorità assoluta. Norvegia, luglio 1973. Gli agenti del Mossad ricevono una soffiata. Salameh si sarebbe rifugiato nella cittadina di Lillehammer. Harari arriva in Norvegia per dirigere personalmente l'operazione. È accompagnato da due gruppi, il team logistico e il gruppo di fuoco. Gli agenti localizzano subito l'obiettivo. Lo individuano mentre esce da un teatro accompagnato da una donna bionda. I tratti fisionomici dell'uomo corrispondono a quelli di Salameh e la sua attrazione verso le bionde conferma il profilo in possesso del Mossad. Gli agenti seguono la coppia mentre rientra a casa. Preparano l'agguato, poi sparano alla loro vittima da distanza ravvicinata. È solo a quel punto che il Mossad si rende conto di aver ucciso la persona sbagliata. Ad essere freddato in pieno giorno è stato Ahmed Boucheiki, un cameriere marocchino la cui unica colpa è di assomigliare a Salameh. Boucheiki muore sotto gli occhi della moglie norvegese che aspetta un bambino. Vittime innocenti mi addolorano. Il mio cuore è con loro. Purtroppo nelle guerre si compiono degli errori, ma sono orgogliosa di come ha reagito lo Stato di Israele. Si è assunto delle responsabilità. Ha pagato per i suoi sbagli. Harari e l'omicida di Busheikh riescono a fuggire, ma la polizia norvegese arresta 6 agenti del Mossad coinvolti nell'attentato. Processati, vengono condannati a lunghe pene detentive. È stato un disastro. Una vittima uccisa per sbaglio. Alcuni agenti arrestati. E uno di loro, per giunta, disposto a parlare pur di non finire in cella. È una vicenda che mette in luce l'aspetto tragico della storia delle operazioni segrete del Mossad. La debacle norvegese sbatte in prima pagina le azioni del Mossad in Europa. Golda Meir richiama subito Harari in Israele. La comunità internazionale è in subbuglio. Israele è in una posizione estremamente difficile. La vicenda di Lillehammer bloccò tutto. Eravamo stati scoperti, gli agenti arrestati, processati. Questo processo e il fatto che Israele operasse in Europa, fuori dai suoi confini, insomma, era chiaro che gli omicidi precedenti non erano regolamenti di conti tra bande di terroristi. Ora si sapeva chi era il responsabile. Golda Meir richiama in patria gli agenti del Mossad, non solo dall'Europa, ma anche da altri paesi del mondo. Il Mossad non potrebbe tollerare un altro fiasco. Sono arrivata alla fine della strada, non posso farcela più. Con questa drammatica confessione, Golda Meir ha annunciato all'esecutivo del Partito Laburista israeliano la sua decisione di lasciare la carica di primo ministro. Israele è in lutto, è morta Golda Meir, una delle figure più importanti della storia recente israeliana, a lungo primo ministro in periodi assai difficili per il suo paese. Dopo il disastro di Lillehammer e l'uscita di scena di Golda Meir, la vendetta di Israele sembra restare una vendetta incompiuta. In realtà però non è così. Quel piano voluto da Golda Meir resterà un piano sempre operativo. Chi verrà dopo di lei non avrà pace fino a che tutti i bersagli sulla lista di Golda non saranno stati colpiti. All'appello mancano ancora 4 nomi, ma l'obiettivo principale è sempre lui, Ali Hassan Salameh. Per anni Ali Hassan Salameh è riuscito a sfuggire agli agenti israeliani. Vive nel lusso con lo stipendio da alto funzionario dell'OLP e con la nuova moglie, la Miss Universo del 1971, di origine libanese. Nel 1979 il principe rosso e la moglie georgina sono a Beirut. Ma anche Salameh ha un punto debole. Per lui pare impossibile resistere al fascino di altre donne. Ascoltiamo lo scrittore Eric Rouleau. Ho incontrato Salameh una o due volte, ma non mi piaceva familiarizzare con lui, perché sapevo che era un assassino. Non mi piaceva, era un playboy. Lo si vedeva sulle spiagge di Beirut, sempre molto elegante e attorniato da belle donne. Era un personaggio che si faceva notare. La vita che conduceva lo rendeva antipatico, sgradito soprattutto a quei palestinesi che conducevano una vita di stenti. Salameh, invece, aveva un mucchio di soldi di cui nessuno conosceva la provenienza e che lui spendeva nei locali notturni. Secondo alcune voci, a finanziare Salameh sarebbe l'America. Dopotutto ha ottimi rapporti con la CIA e potrebbe essere uno dei suoi agenti in Libano. In ogni caso non c'è dubbio che questi contatti gli consentano di promuovere la causa palestinese e favorire Arafat sulla scena internazionale. Salameh era, o almeno sembrava, scaltro. Aveva relazioni eccellenti con la CIA, a cui forse passava tutto quello che gli veniva chiesto. Non c'è dubbio, sapeva come trattare con gli americani e questo spaventava gli israeliani perché temevano che avrebbe potuto portare l'America dalla parte dei palestinesi. Ecco perché lo odiavano così tanto. Ali Hassan Salameh era il capo delle operazioni di Settembre Nero e in seguito al trauma di Monaco, l'intelligence israeliana decise che, nonostante fossero passati tutti questi anni, Salameh era un caso che faceva testo. Era in gioco la reputazione di Israele. Avevano ucciso i suoi vice e i suoi assistenti, fino all'ultimo dei suoi uomini. Adesso era ora di mettere fine a tutta questa storia. Ma gli israeliani conoscono il debole di Salameh per le donne. La trappola è pronta a scattare. Erica Chambers, un agente del Mossad, organizza quello che sembra un incontro casuale con Salameh. Erika è una donna attraente e Salameh ne resta subito folgorato. Tra i due nasce una relazione appassionata che consente ad Erika Chambers di osservare attentamente Salameh e di prendere nota delle sue abitudini quotidiane. Poi gli agenti del Mossad affittano una Volkswagen, la imbottiscono di esplosivo e la parcheggiano nei pressi dell'appartamento di Eric. Ali Hassan Salameh, Beirut, 22 gennaio 1979. Obiettivo colpito. Ali Hassan Salameh, Abu Hassan, è un nuovo martire sul sentiero della rivoluzione e della liberazione. Alle ore 12 di lunedì 22 gennaio, insieme a quattro uomini della sua scorta, per una carica esplosiva azionata a distanza, ha trovato la morte. Il principe rosso, uno dei principali organizzatori del massacro di Monaco, è morto. Il comitato centrale di Fatah e l'OLP, nel condannare l'assassinio del capo militante Abu Hassan, perpetrato da quella sezione speciale incaricata di rintracciare ed eliminare i nemici di Israele, ovunque essi siano, dichiara che i responsabili non sfuggiranno al castigo della rivoluzione. Ma nemmeno la morte di Salameh, il principe rosso, mette fine alla vendetta di Israele. Nella lista di Golda restano tre obiettivi: Ziad, Iyad e Daoud. Intanto siamo negli anni Ottanta. Il Libano è il teatro di una vera e propria invasione militare da parte dell'esercito israeliano. Mix 24, la storia. Bentornati su Mix 24. Nel 1988, a 16 anni dalla strage delle Olimpiadi di Monaco, sono stati uccisi 9 uomini legati in qualche modo all'organizzazione terroristica Settembre Nero. Ma il Comitato X, la squadra top secret di Israele, non ha finito il lavoro. Nell'88 un altro nome viene cancellato dalla lista di Gold. Sabato 16 aprile 1988. 16 anni dopo la strage di Monaco, mentre Israele si appresta a celebrare il 40° anniversario della fondazione dello Stato ebraico, un altro dei responsabili di quel massacro, Abu Iyad, viene assassinato in Tunisia. Ancora una volta, tutti gli indizi sembrano convergere sul Mossad. Abu Iyad, Tunisi, 16 aprile 1988. Obiettivo colpito. La maggior parte dei terroristi coinvolti in quell'attacco sono stati uccisi dal Mossad. Golda Meir ha mantenuto la sua promessa. In realtà Golda Meir ha mantenuto la parola, ma con due eccezioni: Abu Daoud e Abu Iyad. Sono sicuro che gli israeliani sapessero che Abu Iyad era il capo di Settembre Nero. Non credo di essere stato l'unico a sospettarlo, eppure non hanno mai cercato di ucciderlo. Abu Iyad, il capo di Settembre Nero e mente organizzatrice dell'attacco di Monaco, verrà assassinato in Tunisia dal suo rivale palestinese Abu Nidal. Abu Daoud è l'unico ad essere scampato alla vendetta di Golda Meir. Dunque tutti tranne uno. Abu Daoud, uno dei principali responsabili del massacro di Monaco, l'unico sopravvissuto della lista di Golda, una vita in giro per il mondo senza essere mai preso. Nel 2010 è morto all'età di 73 anni per problemi di salute. Amedeo Ricucci è riuscito a trovarlo e poi a intervistarlo prima che morisse. Come vede, sono ancora vivo e vegeto e non ho paura del futuro. Quando ho scelto questa vita, sapevo quello che mi aspettava. Sono un fedain e un combattente che lotta per la causa del suo popolo. Se mi uccidono, è nell'ordine naturale delle cose. Ho rischiato più volte di essere ucciso. Ero a Varsavia per una missione. Era un fine settimana e, non avendo da lavorare, decisi di andare a fare un po' di jogging. Tornato in albergo, trovai un biglietto alla reception scritto in un inglese stentato. Qualcuno mi aspettava al bar, quando all'improvviso mi apparve davanti un tizio con una pistola in mano. La prima pallottola mi colpì al polso e la seconda alla mandibola. Tentai di bloccare l'aggressore, che però riuscì a scappare, continuando a sparare. Alla fine mi trovai con 7 pallottole in corpo. Lei quando ha saputo che esisteva la famosa Gold List, la lista della vendetta? La famosa lista di Golda Meir non era affatto legata all'operazione di Monaco. È una leggenda che va sfatata. La verità, infatti, è che nella lista di Golda Meir c'erano le personalità palestinesi più in vista, politici e intellettuali. La vendetta di Golda Meir è servita solo da pretesto per fare terra bruciata attorno alla leadership dell'OLP. Le faccio dei nomi. Abdelwael Zweiter. Zweiter era un intellettuale, amico di Moravia, un filosofo. In tasca non aveva pistole, ma libri. Mahmoud Amshari. No, assolutamente no. Abdel Al-Cir. Assolutamente no. Bassel Al-Kubaisi. No, nessun legame con Monaco. Youssouf Najjar, Kemal Adouan. Loro erano due ufficiali di Fatah a Beirut e non avevano nulla in comune con Monaco. Con loro venne ucciso Kamal Nasser, che era un giornalista. Non aveva alcun legame con Settembre Nero. Ali Hassan Salame. Chiedetelo agli americani e agli israeliani perché venne ucciso. Egli era in contatto con gli americani e agli israeliani non andava giù che un palestinese si accordasse con gli americani. L'operazione di Monaco come e quando venne concepita? Andammo a Beirut a incontrare Abu Iyad e gli dicemmo che non ci sarebbe stato alcun spargimento di sangue per questa operazione e che l'obiettivo era quello di liberare i nostri prigionieri in Cisgiordania. Non c'era da parte nostra alcuna intenzione di uccidere. Quindi lei lo rifarebbe? Non lo farei come lo feci allora, lo farei meglio. Se potessi tornare indietro non rapirei degli atleti israeliani, ma la stessa Golda Meir. Così avremmo potuto avere un migliore impatto sull'opinione pubblica internazionale. D'altra parte, se avessimo ucciso Golda Meir, avremmo fatto un favore prima di tutto agli israeliani e poi ai palestinesi, perché si sarebbero risparmiate tante vittime. Abu Daoud, che è ancora vivo, dichiara dalla Francia e dalla Siria, dove vive indisturbato: se ne avessi l'opportunità, rifarei quello che ho fatto a Monaco. Un assassino rimane un assassino. Yossi fu assassinato in maniera brutale. Non è morto all'istante. I terroristi lo torturarono spietatamente davanti ai suoi amici. Non permisero ad alcun dottore di visitarlo, né permisero che l'ostaggio ferito, mio marito, fosse scambiato con qualcun altro, con un'altra persona. La morte e la tortura di Yossi servirono ai terroristi come esempio per gli altri ostaggi, per terrorizzarli, per renderli inoffensivi. Ma a dispetto della vendetta di Golda, il ricordo e il dolore di quanto accaduto a Monaco non si è mai spento. Neppure la vendetta è riuscita a rimarginare quella ferita. Nuove ferite hanno insanguinato il Medio Oriente, frutto di una spirale di violenza che davvero pare impossibile fermare. Ringrazio Rachele Bonani, Pietro Gentile, Manuel Guerrini, Antonella Migliaccio in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.